Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Finalmente è tornato l'avvocato Guido Guerrieri. Lo diciamo così perché ogni volta che abbiamo incontrato Gianrico Carofiglio negli ultimi mesi, negli ultimi anni, su altri libri ne abbiamo intervistato, la domanda classica era sempre quella: quando torna l'avvocato Guerrieri, che è un po' il suo personaggio seriale ed è il protagonista del suo ultimo romanzo, La regola dell'equilibrio, pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero. Gianrico, ormai tu sei un habitué, insomma, di Radio 24, possiamo considerarci quasi amici. Il titolo del sono film. Onorato, ora mi cogli di sorpresa prima. No, non lo diciamo perché altrimenti poi dicono: no, allora se sono quasi amici parla esatto, bene del romanzo. Cicciato, diciamo così. No, il romanzo. Non le è piaciuto, ma non lo dice. Esattamente, poi siccome parla di corruzione siamo questo nemici, romanzo. Dai, siamo nemici. Sì, che ti sono anche molto antipatico. Allora, Gianrico Carofiglio, scrittore che mi è molto molto antipatico, ha scritto questo bel romanzo, devo ammetterlo, La regola dell'equilibrio. Allora, dicevamo, torna il personaggio, il tuo personaggio seriale di Guido Guerrieri, che un avvocato che opera a Bari. Mi ha colpito in una tua intervista che tu hai un po' rifiutato l'etichetta di personaggio seriale, o meglio, hai detto che Guerrieri, i romanzi di Guerrieri non sono una serie. Che cosa intendevi dire? Cioè, ti vuoi distaccare dal tuo personaggio? Cos'è che ti dà fastidio? No, non mi dà fastidio nulla, era una precisazione magari campata in aria, ma adesso la rifaccio così ci togliamo il pensiero. Però prima di farla, posso dire una cosa che mi è venuta in mente, certo, mentre stai parlando sulla questione, diciamo, l'autore che mi è antipatico, il romanzo è bello. Una cosa del genere, proprio recentemente, l'ha scritta un giornalista, il cui nome, insomma, mi scuserà, mi sfugge, che ha proprio cominciato, dice: Gianrico Carofiglio è una persona veramente antipatica, a me è antipatico. Lo trovo supponente, lo trovo presuntuoso, non mi ricordo, ne ha detti di tutti i colori, tant'è che l'incipit era: mi dispiace moltissimo dover dire che il romanzo è bellissimo. Beh, però che è la critica più bella, no, alla ma fine. Infatti io me la sono incorniciata, diciamo, quando lo incontro questo qua, gli do una testata e poi lo rinnovo. No, però devo dire, è stata una cosa molto simpatica, scusami, mi è venuta in mente proprio perché hai fatto bene a raccontarcela. Hai fatto quell'incipit. Diciamo, la serialità di Guerrieri. Allora, è una questione terminologica probabilmente, però io tendo a dire che i romanzi di Guerrieri non costituiscono una serie. Perché nell'idea di serie è incluso, secondo me, il principio, il concetto di una indefinita ripetibilità degli episodi e di una relativa interscambiabilità degli episodi. Cioè l'episodio numero 8 può andare in realtà al numero 3 e via discorrendo. E i personaggi principali magari invecchiano formalmente, però ma non sono soggetti a una vera evoluzione. La mia idea rispetto ai 5 romanzi che hanno come protagonista Guerrieri, l'ho detto più volte quindi mi scuso per la ripetizione, è che essi siano piuttosto come dei macro capitoli di una sorta di macro romanzo aperto in cui... Quindi andrebbero letti in ordine secondo te? No, non andrebbero letti in ordine, ma se vengono letti in ordine è, spero, possibile individuare le linee di una trasformazione, una certo, sorta del di personaggio, di evoluzione, di Bildungsroman, diciamo, articolato. Lo sapevo, la parola difficile sì. Ogni volta che viene Gianrico Carofiglio. Mi sono allenato per mesi a ripeterla, c'è un romanzo di formazione, cioè un Wikipedia, romanzo... Wikipedia subito. Bildungsroman magari. Insomma, l'idea è questa, e in questa precisazione ovviamente non c'è nulla contro il la suo serie. Guerrieri no, non c'è nulla contro l'idea della serie, contro chi fa legittimamente, anche perché questo è il periodo in cui le serie TV nei sì, romanzi sì, ma la serie cioè... TV è un concetto diverso. Ma ti piacciono dalla serie TV? Ma dipende, io ho trovato, lo so, dico una cosa banale, l'hanno detto in tanti, ma True Detective veramente una cosa molto ben fatta, e posso dirvi questo è meno scontato e meno, diciamo, di dominio pubblico, meno riferibile da tutti gli spettatori, che c'era una credibilità investigativa nel racconto che non si trova quasi mai. Perché lo ricordiamo, tu per 22 anni hai fatto il magistrato, insomma, eri sostituto procuratore a Bari. Ho fatto quel lavoro, quindi più o meno si dovrebbe presumere che abbia un'idea di come funziona. Di come funziona. E tra l'altro in questo tuo romanzo si vede molto che, diciamo, la tua cultura giudiziaria, perché questa volta Guerrieri ha a che fare con un caso particolare. Un giorno riceve una telefonata da un suo amico, un giudice che lui stima molto, tra l'altro Pierluigi La Rocca, e gli dice, insomma, dobbiamo vederci, c'è un problema. Il problema è che c'è un procedimento a carico di questo giudice nel Tribunale di Lecce, perché lui lavora naturalmente in quello di Bari, per competenza i giudici vengono giudicati da un altro tribunale e l'accusa è pesante. Sì, sì, è un'accusa di corruzione, la peggiore probabilmente che si possa rivolgere a un magistrato, e la storia nasce da là, si articola tutta quanta, perlomeno per quello che riguarda il plot, perché poi ci sono altre cose, su quella zona instabile in cui non si capisce bene se il soggetto è o meno colpevole, quanto lo è, se lo è quella zona in cui è anche difficile distinguere i comportamenti giusti da quelli sbagliati, quello che è moralmente discutibile, quello che è penalmente rilevante, cioè un reato. Fin dove si spingono, si possono spingere le giustificazioni, fin dove non dovrebbero. È molto, credo, questo un libro sull'attitudine diffusa e pericolosa che quasi tutti abbiamo a cercare e purtroppo a trovare autogiustificazioni e autoassoluzioni. In questo senso la regola dell'equilibrio è esattamente l'opposto, il senso del titolo è questo qui. Tutti quanti noi tendiamo a raccontarci un mondo che per certi aspetti non esiste, una verità che è a nostro uso e consumo. C'è una citazione di Dostoevskij nel romanzo che dice: chi mente a se stesso e presta ascolto alle proprie menzogne arriva al punto di non distinguere più la verità né in se stesso né intorno a sé. Ecco, questo è l'opposto della regola dell'equilibrio. La regola dell'equilibrio è cercare nei limiti del possibile di non divorziare dalla realtà, perché nel momento in cui si perde il contatto con la realtà attraverso il racconto che a noi stessi facciamo. Della nostra vita e delle nostre esperienze, il pericolo di una deriva, diciamo, incontrollabile. Anche perché, insomma, il senso di questo romanzo è un po' che molti di noi proprio, insomma, ci facciamo un po' le regole a nostro piacimento, certo. Le regole base valgono per gli altri, non valgono per noi. Il senso della corruzione, di cui tu parli moltissimo, non solo perché c'è il magistrato, ma tu hai fatto appunto il magistrato e quindi ne hai viste di cotte e di crude nella tua vita, pensi sia, come dire, un po' nel nostro DNA? Penso banalmente a quando si chiede all'amico che lavora in ospedale: ah, mi fai fare questa radiografia prima degli altri, non fare la cosa. Cioè è insito nel DNA degli italiani un atteggiamento di piacere, di scambio? Ma io non lo so, io non vado matto per l'idea di individuare caratteri collettivi, però esistono alcuni connotati della cultura sociale, intesa come espressione neutra, quindi anche come cultura negativa, che hanno degli aspetti di identità, di ripetizione. Questo è uno di quegli aspetti. La tendenza appunto a dire che le regole riguardano gli altri perché noi ci interessano soprattutto le eccezioni, la tendenza a dire: ma in fondo a chi ho fatto male? Oppure tutti fanno così, insomma, Tangentopoli, Roma Capitale, ci hanno tutti insegnato questa cosa. Tutti fanno così e via discorrendo. In generale una percezione friabile delle regole è una caratteristica piuttosto diffusa. Io non so, sì, forse nel nostro paese la situazione è più complicata che altrove, perché funzionano meno i meccanismi sociali di controllo collettivo. Altrove è percepito di più il controllo della collettività sui comportamenti anche individuali. Ma indipendentemente da questa ragione, quello che a me interessava non era tanto fare una riflessione sul costume italiano, ma raccontare e riflettere attraverso questo racconto una tendenza che è umana in generale, cioè quella a cercare giustificazioni e a raccontarsi il mondo in una maniera coerente con un'immagine rassicurante di noi stessi, ecco. In questa, diciamo, in questo caso, nel seguire questa vicenda, l'avvocato Guerrieri si fa aiutare da un personaggio femminile, Anna Paola, che è un personaggio femminile molto forte, anche un po' controcorrente. È una che usa la moto, è una che porta nella sua borsa la mazza da baseball, insomma è una che sembra anche apparentemente aggressiva, però è un personaggio femminile secondo me molto molto bello, interessante, anche un po' insolito nel panorama italiano. Per te che cosa rappresenta Anna Paola? Io dico, chi scrive romanzi ha un'opportunità impagabile. Se ci sono dei personaggi o delle persone che vorresti incontrare nella vita reale che non hai incontrato, hai la possibilità di inventarteli, metterli nelle pagine di un romanzo e renderli reali, perché diventano reali, non c'è il sogno di Gianrico Carofiglio è che una donna con una mazza da baseball vada a prenderlo sotto casa con la moto. Detta così suona inquietante, diciamo così. Detta così suona un po' inquietante. Però diciamo che sono molto attratto dalle donne con caratteristiche maschili, insomma, di determinazione, a volte anche di durezza, in cui ovviamente si mescolino poi caratteristiche più tipicamente femminili. Mi piacciono le donne con picchi e contrasti. È venuto fuori in modo molto naturale, credo, questo personaggio, proprio per questa ragione. A differenza di altri casi, per esempio, non ho dovuto fare quasi nessuno sforzo per trovare la sua voce. Lei parla in un modo che credo sia riconoscibile, ed è diverso dal modo in cui parlano gli altri personaggi, ed è un modo di parlare, di rivolgersi agli interlocutori e al mondo, che è stato subito coerente con l'idea che avevo di questo personaggio. Devo dire, quando capita, e non capita spessissimo, è una bella sensazione per chi scrive. A proposito di guerrieri, invece, prima dicevamo che è il tuo personaggio seriale, ma che ha un'evoluzione, diciamo, emotiva, psicologica nei vari libri. Quello che non cambia è la sua passione per il pugilato. C'è una parte in questo romanzo in cui tu proprio, insomma, gli fai dire, mettiamola così: ogni tanto mi chiedono, con l'espressione cauta che si riserva agli eccentrici, perché io insista con il pugilato. Il sottinteso è: forse arrivato alla tua età sarebbe il caso di imparare a giocare a golf e finirla con questa storia di prenderti a pugni con ragazzi che potrebbero essere tuoi figli. E poi, insomma, dice che il pugilato è comunque uno sport anche letterario, che insomma a lui piace. Tu hai raccontato spesso anche nella tua vita che è una cosa che anche a te piace. Sì, sì, in generale io ho questa... Insomma, questa è una caratteristica fissa di Guerrieri e di Carofiglio. Beh, insomma, è una cifra stilistica del personaggio, il pugilato, con tutto le metafore che possono venirne fuori, con tutto il bagaglio di storie accadute o possibili, con il sacco che lui tiene a casa, che è diventato un personaggio, un interlocutore dei soliloqui di Guerrieri. E certo, questa passione o fascinazione o ossessione per gli sport di combattimento è una cosa, insomma, dell'autore prima che del personaggio. Sin da quando ero ragazzino ho praticato arti marziali. No, diciamo, lo facevi a pugni con i ragazzi, perché anche... l'hai raccontato in un altro libro, in un altro romanzo, e quindi l'abbiamo anche raccontato. Ero un ragazzino insicuro e manesco perché insicuro. Questo, insomma, abbiamo fatto già una riflessione, credo, su questo tema. Io mi stupisco sempre molto a vedere questa faccia d'angelo così, sì, per bene, e poi immaginare un ragazzetto. Ero, tornavo a casa, mi ricordo, spesso dopo, insomma, ris stradali, e mi ricordo mio padre diceva: io non capisco da dove sei venuto fuori, perché noi siamo una famiglia normale. Dice: tuo fratello è normale, non ha mai fatto a botte. Io non ho mai fatto a botte nella mia vita. Vabbè, tua madre, insomma, sarebbe bizzarro se fosse accaduto. E quindi si interrogava un po' sconsolato, ma devo dire anche piuttosto rassegnato, rispetto a questa mia attitudine, su cui, insomma, non vorrei annoiare gli ascoltatori, ma insomma è ampiamente spiegabile anche da uno psicologo, diciamo, non troppo sofisticato. Però ecco, insomma, gli sport da combattimento mi hanno affascinato da quando ero un ragazzino frustrato e desideroso, come dire, di affermazione. Per questo motivo avevo iniziato a praticarli, poi sono rimasti là e tuttora mi capita, o meglio, oggi mi capita che mi guardino e mi chiedano, così come capita a Guerrieri, se, insomma, non è forse arrivato il momento di smettere. Perché superato, come si dice, superati i limiti di età, insomma. Per superati i limiti di età io rispondo, a seconda dell'umore, in maniera più o meno scurrile, vado avanti. Dammi una risposta diplomatica, no, perché con diplomatica. No, continuo, dico, non do fastidio quasi a nessuno. Quasi a nessuno, quindi, a parte il sacco, insomma, che non sarà molto contento, ma tanto è un essere inanimato, è un amico. Ma non cominciamo anche tu a parli? Ma certo. Quindi ho sbagliato a dire che è un essere inanimato il sacco, certo, perché sei come Guerrieri. Io ho più volte detto che il sacco è psicoterapeuta ideale, perché ascolta tutto il tempo che vuoi. Non risponde. Non dice nulla, non fa commenti, nel migliore o nel peggiore dei casi. Non giudica. Certo, appunto, ondeggia un pochettino, quindi ognuno poi può interpretare, come posso dire, questo dondolio come approvazione o come garbato dissenso. E costa molto poco, devo dire. Eh sì, beh, in proporzione ad una terapia psicanalitica, probabilmente, cioè sicuramente sì. E nel caso si prende pure le botte. E si prende anche le botte. Tornando un po' al tema cardine della regola dell'equilibrio, si diceva sì, la corruzione. Tra l'altro, inizialmente questo magistrato dice: ci sono delle voci sul mio conto, ci sarebbe stato un pentito che avrebbe detto. Quindi, insomma, ci sono vari aspetti proprio dei meccanismi giudiziari che tu racconti in modo molto semplice, molto narrativo, che però sono stati anche protagonisti della storia italiana, della cronaca degli ultimi 40 anni, possiamo dire. C'è il tema della corruzione, c'è questo tema, come dicevi tu prima, del giustificare sempre il proprio comportamento. Capita anche a te di giustificare i comportamenti che magari, così, di violare le regole e di raccontartela un po'? E come no? Sennò come facevo a scrivere il libro? No, è vero, tutti quanti lo facciamo. Il problema è di quanto uno lo faccia e della capacità che uno ha, oppure no, di a un certo punto rendersi conto del processo e fermarsi, perché il problema è quello dello smottamento che deriva dal dirsi le bugie, dal rotolare sempre più lontano, come posso dire, dal binario della verità, qualunque cosa l'espressione significhi, verso un racconto che è un racconto tutto quanto costruito su noi stessi per corrispondere all'immagine che di noi stessi ci piace. Io, insomma, ho incontrato un certo numero di delinquenti, diciamo, nella mia vita, e quasi nessuno avrebbe riconosciuto di essere un delinquente, ma non perché mentiva al magistrato per evitare conseguenze, diciamo, penali, condanne o altro, perché quasi sempre, anche rispetto alle cose più improponibili e ingiustificabili, era in grado, nel profondo del suo delirio individuale, di trovare una giustificazione. In particolare, non troverai mai, fino al momento in cui comincia a confessare per le più diverse ragioni, un corrotto che nella vita, diciamo così, ordinaria, di corrotto felice, riconoscerebbe, chiacchierando con qualcuno: beh sì, sì, insomma, voglio dire, come vanno le cose? Bene, diciamo così, si ruba a destra e a manca, si prendono mazzette e si viola sistematicamente il dovere, per esempio, di imparzialità, che è quello dei pubblici amministratori. Nessuno ti dirà mai una cosa di questo genere, nessuno ammetterà mai di essere uno sporcaccione. Dopo, quando magari è stato arrestato, quando magari è scoppiato lo scandalo, quando qualche cosa si è rotto in questo equilibrio, per certi aspetti delirante, che è il risultato dello smottamento di cui dicevo. Questo è un problema, non so quanto fondamentale per contrastare il fenomeno, ma certamente di enorme interesse per la letteratura e per le storie da raccontare. Infatti questo romanzo, La regola dell'equilibrio, secondo me è bello, interessante, perché racconta, come dire, l'aspetto psicologico, il combattimento mentale, certo, a volte che c'è mentale all'interno di una persona per decidere cosa è bene, cosa è male, cosa è una regola e cosa è violarla la regola. Grazie a Gianrico Carofiglio, ora in libreria con La regola dell'equilibrio, pubblicato da Einaudi. Tra l'altro, lo ricordiamo, questo è il primo volume dell'Avvocato Guerrieri, che non pubblichi più con Sellerio ma pubblichi con Einaudi, quindi c'è stato anche un passaggio di casa editrice, insomma. Personaggio seriale di Carofiglio, ossia l'avvocato Guerrieri, passiamo ad un'altra protagonista seriale. Si chiama Catherine Sinclair ed è nata dalla penna di Elisabetta Cametti. Siamo nell'ambito dei thriller archeologici, per intenderci. Il suo primo romanzo era I guardiani della storia, ora è invece in libreria con Nel mare del tempo, pubblicato da Giunti. Rapidamente la trama. Catherine sta presentando il suo romanzo e un uomo si uccide di fronte a lei, dopo averle consegnato un anello antico dove sono incisi due nomi. Ci saranno poi una serie di omicidi e Catherine avrà a che fare con la storia di Angelica, una donna misteriosa vissuta nel Medioevo. Quindi anche in questo caso si tratta, come dicevamo, di un thriller archeologico. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa di più su Catherine Sinclair, come ce la racconta la sua autrice Elisabetta Cametti. Catherine Sinclair è stata creata per essere un personaggio seriale, quindi Catherine Sinclair ritorna in questo romanzo più combattiva che mai. Lei è una donna vera, non è la classica eroina alta, bionda, con gli occhi azzurri, bella e impossibile, ma è una donna in cui ogni donna si può identificare. Una donna che sbaglia, una donna che urla, una donna che piange, che cade spesso, che però ogni volta si rialza e va avanti con grande determinazione. Così come l'abbiamo scoperta nel primo romanzo, questa volta conosceremo qualcosa in più di lei, soprattutto che non guarda il passato, che carica di poche attese il futuro e che vive di presente, cercando un po' di dare un significato alle sue giornate. Nel primo romanzo era una donna molto arrabbiata, qua troviamo una donna più consapevole, sempre molto determinata, però anche consapevole del fatto che in qualche modo non sempre la vita va come ci aspettiamo e quindi lei prende mano le briglie e si ricostruisce un nuovo futuro. Il mistero nei tuoi libri è dato anche dall'aspetto archeologico, insomma, della vicenda. L'archeologia offre sempre molti spunti del mistero, insomma, in tutta la tradizione del giallo classico, del noir. Tu perché hai deciso di mettere l'attenzione su questo? Io sono un'appassionata di civiltà del passato da sempre, soprattutto di civiltà poco conosciute e con ancora tanti misteri da scoprire. Quindi nel primo romanzo parlo degli Etruschi, anche perché sono un popolo vicino a noi, un popolo comunque di casa nostra, che non ha nulla che invidiare agli Egizi, quindi un popolo ricco di simbolismo, di esoterismo. E in questo secondo romanzo parlo del Medioevo, un Medioevo poco toccato ancora, il Medioevo di Fra Dolcino, anche perché c'è questo parallelismo tra Fra Dolcino, il più importante eretico della storia, e Angelica, seconda protagonista del romanzo insieme a Catherine Sinclair, e poi anche degli Ittiti, questa civiltà che per millenni è stata dimenticata dalla storia e che è stata riportata alla luce grazie all'archeologia moderna e alle costruzioni sotterranee che loro realizzavano in Turchia. Quindi tutte civiltà molto cariche di mistero, e qua il mio lavoro è quello di arrivare e parlare delle cose che si conoscono e poi volare un po' con la fantasia dove ci sono ancora enigmi, dove ci sono ancora cose da scoprire. Naturalmente nel tuo caso c'è sempre anche un grande studio, insomma, per conoscere perfettamente i periodi storici in cui vengono ambientate le storie. Come ti nasce l'idea di una storia? Da cosa parti? La storia nasce sempre dal personaggio, e soprattutto questi libri, il primo e il secondo, sono nati dalla volontà di creare un personaggio femminile che fosse in grado in qualche modo di lasciare il segno, di passare messaggi non convenzionali, di trasferire anche emozioni forti in un contesto comunque thriller, capace di unire quelli che dal mio punto di vista sono gli elementi fondamentali in un libro: thriller, azione, avventura, suspense, anche un ritmo molto accelerato, però i misteri della storia e anche una relazione d'amore, un sentimento, un qualcosa di molto profondo, capace di unire un po' gli eventi della narrazione. Quindi di solito parto dal personaggio. Ho già, quando inizio a scrivere, la storia molto chiara in mente, quindi tutta la struttura, dove inizio, quali sono i personaggi, come si svolge e tendenzialmente la fine. Però man mano che scrivo molte cose vengono in mente, molti nuovi spunti, e quindi il libro per forza prende una vita man mano che lo si scrive, questo sicuramente, ed è anche bello così. È bello non poter prevedere tutto dall'inizio, ma lasciare un po' anche che la narrazione, la scrittura ti porti dentro e che ti faccia venire nuove idee. Catherine è appunto il tuo personaggio seriale, compare già in due romanzi, diciamo che non hai ancora avuto il tempo di stancarti di lei, insomma. Ma che rapporto hai con questo tuo personaggio? Quanto ti identifichi e quanto rappresenta magari quello che tu vorresti essere? Con Catherine ho un rapporto veramente molto forte. Catherine per me non sono io, ma è una donna aspirazionale, nel senso che lei è una donna che è il mio esempio in qualche modo, perché porta avanti innanzitutto i valori in cui io credo: l'integrità, la fiducia in se stessi. È una forte animalista, quindi lei sostiene ogni forma di vita e lotta tutti i giorni contro quelle che io chiamo un po' le manifestazioni dell'ignoranza, l'invidia, la cattiveria, la superbia, un po' il mondo che ci circonda. Poi lei è una manager, quindi è immersa in questi giochi di ruoli importanti e li combatte. Quindi lei è in qualche modo la voce, la mia voce amplificata all'ennesima potenza, e anche perché essendo fiction lei si permette di fare delle cose che io nella mia vita quotidiana non sempre posso fare. Quindi banalmente, e così è stato nel primo romanzo, lei vuole fare qualcosa, va avanti dritta per la sua strada, nessuno la ferma, e poi sarò io in quanto autore a fare in modo che le cose vadano come devono andare. Quindi sono molto legata a Catherine Sinclair, continuerò a scrivere di Catherine Sinclair, ma il prossimo romanzo avrà una nuova protagonista, perché sto studiando un secondo profilo, sempre donna, molto diversa da lei, direi quasi il suo opposto. L'unica cosa che le accomuna è una cappa nel nome, perché a me piace pensare che tutte le mie protagoniste femminili abbiano sempre una cappa, quindi si chiama Veronica Evans. Fa la fotografa, vive a New York, sarà sempre un thriller con un ritmo molto accelerato, forse più accelerato dei libri di Catherine Sinclair, e non avrà rimandi al passato. Invece Catherine Sinclair, tutta la serie di Catherine Sinclair è ancorata comunque a misteri della storia. Sto scrivendo di Veronica Evans perché il mio obiettivo è pubblicare un libro su Veronica Evans, poi un altro su Catherine Sinclair, un altro su Veronica Evans, e poi, come accade spesso nelle serie televisive americane, fare il classico crossover, quindi fare in modo che Catherine Sinclair e Veronica si incontrino in un'avventura carica di tensione e di suspense. Andrea Camilleri dice che le donne non sanno scrivere gialli o thriller, che non hanno quel piglio così particolare. Tu, da scrittrice di gialli storici, di thriller, come rispondi a questa così provocazione? Non è il solo a dirlo, e forse è per questo che la stampa e la critica mi hanno definita la signora del thriller italiano, perché forse sono una delle poche donne che scrive thriller e che pubblica romanzi thriller all'estero. Per me questa è una sfida, nel senso che so che molte donne scrivono di thriller, ma proprio per questo problema si nascondono dietro uno pseudonimo maschile. La stessa J.K. Rowling, dopo aver scritto Harry Potter, pubblica il suo primo thriller come Robert Galbraith, e quindi questo, siamo un po' alle sorelle Bronte di molti anni fa e non è cambiato molto. Da un lato è una cosa che fa riflettere, che fa pensare, dall'altro la vivo come uno stimolo, come una sfida. La strada è in salita, però non sono solo gli uomini che possono parlare di giallo, di thriller, di suspense, e siamo qui per dimostrarlo. Questa era Elisabetta Cametti, ora in libreria con Nel mare del tempo, pubblicato da Giunti. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Michele Previato. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri, naturalmente in podcast, potete consultare l'archivio su radio24.it, mi trovate su Twitter come Ale Teddina e su Facebook anche come Il Cacciatore di Libri - Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.